40. Zuppa alla spagnuola. Prendete un petto di pollastro o di cappone, tagliatelo a pezzetti e mettetelo a cuocere nel burro a fuoco lento. Conditelo con sale e pepe. Se non basta il burro, bagnatelo col brodo. Levate il petto asciutto e nell'intinto che resta gettate una midolla di pane, grande quanto un pugno, e con brodo fate un poco di pappa soda. Questa, col petto cotto, versateli nel mortaio e aggiuntivi due rossi d'uovo e poco odore di noce moscata, pestate ogni cosa ben fine e il composto lasciatelo in luogo fresco onde assodi. Al momento di adoperarlo, che può essere anche il giorno appresso, fate cadere sulla spianatoia un velo di farina e sopra la medesima tirate col composto un bastoncino grosso un dito o meno e con un coltello infarinato tagliatelo in tanti pezzetti tutti uguali che arrotonderete con le mani imbrattate di farina per farne tante pallottole della grandezza di una nocciuola o meno. Gettatele nel brodo bollente e dopo 5 o 6 minuti di bollitura versatele nella zuppiera dove avrete collocato avanti del pane a dadini soffritto nel burro o nell'ardo vergine, oppure, che sarà anche meglio, se per pane vi servite della zuppa ripiena del numero 32. Potrete così ottenere una minestra signorile, bastevole per 10 o 12 persone.